per quanto riguarda l'uscita di scena di Moratti e della famiglia Moratti dall'Inter, ci sarà questo interregno con un nuovo proprietario, però di fatto sarà così, cioè Rick Toir. Manca l'inchiostro sul pezzo di carta, ma sappiamo bene come questi discorsi e questi affari siano molto complicati anche dal punto di vista tecnico e finanziario, però ormai è tutto detto, tutto fatto, tutto scritto. Sentiamo cosa dice Marco Belinazzo del Sole 24 Ore. Ragazzi, cosa vi aspettavate oggi? Qualcosa di diverso forse? Per segnare nero azzurri, noi saremo qui nero azzurri. L'inno più bello del calcio italiano, secondo me, a prescindere dal tifo. Inno molto trasversale, si balla ovunque, non si può più usare allo stadio per delle questioni burocratiche tra Rosita Celentano e l'Inter, questioni di diritti, ma questo non è importante. La cosa importante è che questo inno è trasversale esattamente come il presidente dell'Inter, perché Massimo Moratti è stato, sarà credo ancora per un po', adesso lo scopriamo, parte del nostro calcio. Però oggi su col morale, ragazzi, mi sembra il giorno dei necrologi, le stagioni del cuore, Paolo Di Stefano sulla prima pagina del Corriere della Sera, lettera a un interista, com'è? Lettera a un interista smarrito, direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Monti. 18 anni al massimo nel nome del padre, sempre altro titolo della Gazzetta. Venduta l'Inter fine di un'epoca, Corriere dello Sport. Sembra il giorno dei coccodrilli, come si chiamano, saprete, no? In gergo giornalistico, quei necrologi preconfezionati che si tengono nel cassetto pronti all'uso, e oggi è il giorno. Io non so quale sia oggi l'umore degli interisti, né, come dicevo prima, Moratti, personaggio trasversale, l'umore del popolo del calcio. Quindi lo chiedo a voi, 800 24 00 24, numero verde, Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, si apre la stagione dell'Indo Inter. No, è stata un'occasione per conoscerci leggermente di più e conoscere anche le persone che al limite possono entrare con Toir, potrebbero entrare con Toir nell'eventuale accordo, e quindi più, è servito più per una conoscenza più approfondita, insomma, tra le persone che per, non ci sono neanche grossi problemi da risolvere, che per decidere, diciamo. Lei ha detto la famiglia sicuramente, Massimo Moratti presidente sicuramente? No, non lo so, non è una cosa che abbia pensato in questa situazione, no, non credo. Non crede? Non lo so, non credo, non lo so. Non è che abbiamo aumentato o diminuito quello che possa essere il tipo di operazione che dovremmo fare o potremmo fare. A questo punto però, per arrivare all'accordo, cosa potrebbe mancare ancora? Di decidere e capire bene poi quando è il momento giusto. E se passare avanti più che altro avvenga da un punto di vista umano, cioè cercare di, insomma, ci siamo conosciuti un po' di più, ho apprezzato molto carattere delle persone che ho conosciuto, e quindi questo mi ha fatto piacere. Per me è importante, molto importante. Marco Belinazzo del Sole 24 Ore ha seguito questa vicenda, ma lo sapete perfettamente dall'inizio alla fine. È questa la fine, Marco? Ciao Carlo, ciao. Buongiorno a tutti. Beh, mi meraviglia un po', insomma, il clamore di queste ore per un accordo che risale almeno a un paio di mesi fa. Le firme, e cioè quella che sarebbe stata la vera notizia, non ci sono ancora, arriveranno presto, chiariamo quando? Questo nel giro di qualche giorno. Guarda, credo che ormai siano questioni burocratiche, in vicende così complesse, in affari così complesse, chi segue un po' il mondo della finanza sa che ci sono dei tempi tecnici per le operazioni, però ecco, l'accordo sostanziale era stato già raggiunto qualche mese fa. Poi si sa, quando dal lato c'è la necessità di vendere, dall'altro la volontà di comprare, e quindi l'obiettivo finale è chiaro per tutte e due le parti, c'è da discutere dei dettagli, quei dettagli ai quali faceva riferimento anche Moratti nelle sue ultime dichiarazioni. Giustamente lui ricorda che anche uno di quei dettagli può far saltare tutto alla fine, però diciamo che questa è un'eventualità che dobbiamo considerare come fisiologica in tutti gli affari e del tutto marginale, lo era nella vicenda Inter già da un paio di mesi. Quello che è successo ieri è che Moratti è tornato da Parigi, da questa non stop nella quale sono state messe a punto tutte le ultime questioni, risolti i problemi di governance, di ruoli, di cifre e di percentuali, e dopodiché appunto si dovrà arrivare sostanzialmente alle firme e ci sarà poi un annuncio congiunto delle due parti, o comunque contestuale delle due parti, dopodiché potremo effettivamente parlare di un Inter indonesiana con la presenza dei Moratti. Sì, ma perché ti sorprendi di questo clamore? Insomma, Marco, sai che questa è una vicenda, il calcio è una storia di pancia, oltre che di soldi e di affari, è una questione di emozioni e sensazioni. Dopo 18 anni Moratti esce a dire non sarò più il presidente dell'Inter, e quindi sai, è normale che oggi sia questo giorno di con tanti sentimenti. No, assolutamente, guarda Carlo, non mi riferivo ai sentimenti, al clamore che capisco, mi riferivo alla chiusura, sì, semplicemente ai termini contrattuali che per chi ha seguito la cosa insomma erano già abbastanza chiari, almeno nel loro esito. Resta la curiosità di capire, e su questo insomma stiamo e sto ancora lavorando, le cifre finali e tutti i vari addentellati che ci sono, scoprire insomma l'alchimia che ha portato all'accordo. Io il 30 maggio, quando ho svelato dell'offerta di Torino, ho parlato appunto di questa offerta pari a circa 260 milioni per l'80% dell'Inter. Mi sembra che stiamo andando in quella direzione, ci saranno ovviamente degli scarti, però ecco, sarà interessante capire poi quanta parte dei soldi che Moratti incasserà serviranno a coprire i debiti, le perdite del 2013, quanta parte resterà nelle sue tasche. Consideriamo in questi 18 anni di storia, e la storia dell'Inter, di storia del calcio parliamo, Moratti ha speso 1,2 miliardi, insomma, ha raggiunto risultati importanti, ma ha speso tanto. Ha speso qualcosina, è costata qualcosina alla famiglia Moratti questa lunga stagione. Marco Berinazzo, per chiudere con i dettagli di questo, con il futuro che si prepara ai tifosi dell'Inter. Dicevo prima, compra Messi, Cristiano Ronaldo, Thiago Silva, e poi chi compra, Toyer? Beh, direi che è esattamente l'opposto a quella che sarà la strategia della nuova Inter indonesiana. Io penso più a un modello tedesco, non perché sia di moda, ma perché tra l'altro lo stesso Toir, nelle poche dichiarazioni vere e serie che ha fatto, ha chiarito che non seguirà il modello, tanto per intenderci, Paris Saint Germain, Manchester City o Abramovich, Chelsea dei primi anni. Seguirà un altro modello, che è un modello basato sul contenimento dei costi, quindi su una rosa giovane da far crescere nel tempo, quindi con innesti mirati, dopodiché si punterà a far crescere il fatturato, e questa è la vera sfida che la cordata indonesiana raccolta intorno a Toir vuole lanciare al calcio italiano, e credo che potrà portare effettivamente delle innovazioni. L'Inter ha nell'area del sud-est asiatico, in Indonesia in particolare, una massa importante di tifosi. Lo sviluppo, la capacità di sfruttare al meglio il brand in quell'area, credo siano fondamentali e centrali nel progetto che avrà la nuova dirigenza nerazzurra. I colpi arriveranno gradualmente, penso appunto al Borussia Dortmund, che qualche anno fa, appena 10 anni fa, era di fatto fallito come club, è stato ricostruito in maniera molto saggia, prima economicamente e poi sportivamente, ed è un modello che so, insomma, piace molto ad alcuni che fanno parte, insomma, della cordata Toir, guardano con grande interesse a questa esperienza, ed è probabile, insomma, che la replicheranno nei primi anni di gestione all'Inter, che sarà una sorta di coabitazione con i Moratti, dove però comanderanno, sia chiaro, gli indonesiani e Toir. Ho letto anche di possibili veti, diritti di veti rilasciati ai Moratti per operazioni particolarmente onerose, però a me, insomma, non ti risulta come operazioni, insomma, chi mette soldi vuol comandare, ma sicuramente certo, non avrà le mani legate, o non si è legato da solo le mani, mi sembrerebbe. Assolutamente, anche se questo troppo. Periodo di transizione, se devo essere sincero, lo vedo un po' scivoloso, sarò malizioso io, però lo vedo un po' difficile. Moratti ministro senza portafoglio, e poi tutti i lunedì sotto gli uffici della Saras a fare la coda con i microfoni, e lì sarà divertente. Marco, ti ringrazio. Grazie a voi, a presto Carlo. Grazie Marco Beninazzo del Sole 24 Ore. Dunque avete capito, no, come sarà l'Inter di Toir? Tutti convocati Magazine. Allora torniamo, e questo, se devo dire la verità, è la parte che preferisco in questo programma del sabato, perché voglio riascoltarvi, voglio riascoltare le vostre voci. Pasquale Chieti, provincia di Chieti, buongiorno. Salve, ciao, buongiorno, buongiorno. Grazie per essere stato convocato. Io sono stufo, ma mi fai un pronostico per favore, perché io sono stufo, è coniglietti miei, mi rimproverate perché li sbaglio, ma voi non li fate mica mai. Scusa, non ho capito che stava passando una macchina, che sto fermo sulla dopo che è passata la macchina, mi fai un pronostico su Milan Celtic e allora Napoli Borussia? Vedi che sono incazzato. Sei incazzato? È dura, però io penso che ce la faremo, perché non per merito del mister. No, aspetta, no, ce la faremo chi? Non noi, ho capito. Sì. Noi del? Del Milan. Ah, noi del Milan, ok. Sì. Perché appunto volevo dire che chiedo scusa alle ragazze che mi hanno passato, che io ho detto che ero incazzato. Ma devo con pardon de las damas, come direbbe Maradona. Ma devo essere incazzato, capiscimi bene, perché l'anno scorso ti ho telefonato, se ti ricordi, ti ho detto che se Costant l'ha presa dentro un'osteria, sì, mi sta bene pure che sia che gli piace bersi qualche bicchiere di vino, okay, e mi sta bene. Ma questo allenatore è troppo infortuni, questo non può essere l'allenatore di una società come il Milan. Io ve lo dico, ve l'ho detto l'anno scorso, due anni fa, e ve lo continuo a ripetere. I risultati stanno venendo a galla. Poi non parliamo del direttore sportivo, perché riprendere Kakà, fai bene quando metti quel disco, anzi se lo rimetti lo ricanto un'altra volta. Che cosa? Se lo rimetti lo ricanto. Cosa? Quel dischetto, quella musica, non mi ricordo bene. E no, io te la faccio, non si vende Kakà, no. Quale coro vuoi? Quale musica vuoi? Voglio, te la mettiamo, aspetta. Non mi riviene in mente, guardi, quando sono certi nervoso. Amori non finiscono. Allora, sento che sei, amori non finiscono, ma per farci una partita a carte, non per giocare in mezzo a calcio, mezzo a campo. No, capisci bene. Sì, no, ma sei molto arrabbiato. Ma, sì, sono arrabbiato perché sono milanista da una vita. Anni. Pasquale, ma non è ancora successo niente. Tante persone che non sanno neanche dove è il calcio. Canta, prova. Chiedo scusa. Mi sono incazzato. Io ho 60 anni che tipo questo Milan. E sono venuto sopra l'undicesimo scudetto, il quindicesimo, da tutte le parti. Questi non sanno più che cos'è il calcio. Non lo sanno più, scusate, ma oddio, grazie, guarda, ma avete fatto sfogare. No, ho sentito, però che adesso devo andare a casa. Questo non è un allenatore per il Milan. Chiuso. Canta. Prima categoria e merito. No, canta, ti prego. Senti. La senti? Ecco, vedi? Vedi? Dai, Pasquale, stasera il Milan vince. Mio figlio ha 30 anni, è nato con un paio di pantaloncini e con una maglia milanista. Ma la stanno facendo odiare. Ma no, ma non è. Pasquale, dai, ma non è ancora successo niente, dai. Non è ancora successo niente. Non può allenare il Milan, mi dispiace, ma ve lo dico, ve lo ripeto. L'ha detto. Cagliari l'ha capito bene, se no che andasse all'osteria di Costant, che è meglio. Sentiamo domani, Pasquale. Grazie. Rocco Foggia, buongiorno. Buongiorno Carlo. Buongiorno Rocco. Dica. La trasmissione tua è una favola. Grazie. Ma vedrai Rocco sempre, che adesso sai che il 30 settembre parte il palinsesto nuovo, ci divertiremo ancora di più, te lo prometto. Totti e Balotelli. Totti e Balotelli. Che facciamo con Totti e Balotelli? È una cosa che io pensavo agli occhi miei, è una cosa eccezionale. E poi se, diciamo, la partita scorsa che ha fatto è una cosa proprio, diciamo. Poi Balotelli. Rocco, fammi un favore, spegni la radio perché sennò non riesco a sentirti. Poi la riaccendi naturalmente. Grazie. Balotelli. Quando ha tirato il rigore dell'ultima nazionale che hanno fatto, viste che ha fatto. Stava andando, poi si è fermato. Però fai bravo, perché sennò poi gli ascoltatori si arrabbiano, perché mi dicono che parlo sempre bene di Balotelli, e quindi che fai? Mi costringe a parlare di nuovo bene di Balotelli? Io lo devo fare per contratto, tu lo sai, no? Tutti i soldi che prendo per parlare bene di Balotelli. Però a me pagano per parlare bene di Balotelli, anche di Mourinho, anche con Moratti mi sto mettendo d'accordo. No, comunque, al di là dello scherzo, stiamo parlando, secondo me, dei due principali talenti del calcio italiano. Mi viene da dire così. Totti che decide di continuare, di andare avanti fino ad anni 40. Ha firmato il contratto? Sì, firmato, sta parlando. Però, diciamo così, non lo so, non ho capito per quanto tempo. Senti, ma tu eri io mi ricordo di te, perché tu un giorno sei intervenuto e hai detto: io gioco come Totti, ma tiro più forte, vero? Sì, no, io non è che posso giocare più. Io oramai ho 70 anni. Sì. A quando giocavo io, giocavi come Totti. Mi venivano a prendere che zappavo la terra. Allora mi portavo sul campo. Quando facevamo Manfredonio, Foggia, tutte queste. Quando vedevano che dovevo giocare io. Una passata quasi. Perché io tiravo dalla porta a un'altra porta, che avrei detto senza per dire. Sì, come Totti e come Balotelli. Grande Rocco, grazie. Torna a trovarci prestissimo. Ti ringrazio, arrivederci. Grazie a te. Arianna, provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare dell'Inter e della scelta di Moratti di rinnovare il contratto a Branco. Scusa, Arianna. Sì. Ho fatto un po' fatica a sentirti, mi puoi ripetere? Ok, aspetti che tolgo il viva voce. Grazie, bravissima. Allora, volevo parlare dell'Inter e della scelta che ha fatto Moratti di rinnovare il contratto a Branca. Perché, cioè, non è possibile che non ha fatto un mercato soddisfacente, a parte Mazzarri che è un top player, è stato l'unico acquisto top coach. Meraviglioso, veramente. È un top player tra i coach, facciamo così, se vogliamo usare... Quanti anni hai, Arianna? 13. Io mi ricordo di te, sei già intervenuta. Sì, avevo già parlato. Perché quando avevo letto su Solo Inter che Moratti aveva rinnovato il contratto, e ero rimasta male, perché... Allora, va bene fidarsi delle persone che ci sono, però di quei dirigenti che non hanno fatto un mercato buono, non hanno fatto assolutamente un mercato buono, a parte quelli che ho detto prima, non hanno fatto un mercato, sì, e poi si nascondono sempre dietro, non hanno il coraggio di parlare, cioè, anche lì va bene fidarsi, però sinceramente di Branca proprio no. Bene, sono molto felice di avervi riascoltati. Naturalmente vi do appuntamento. Beh, domani c'è Giovanni Capuano, ve lo ricordo sempre, dalle 17 alle 19, che vi terrà compagnia, ci sarà anche il sottoscritto a macchiare il suo bel programma. Noi ci risentiamo lunedì con tutti i convocati a partire dalle 14, in attesa di grandi novità e grandi sorprese per il palinsesto nuovo che partirà, ve lo ricordo, il 30 di settembre. Intanto andiamo a prepararci ad un grande weekend di campionato, come dicevo all'inizio, weekend di campionato che sarà chiuso domenica sera da un Milan-Napoli che ha una grande favorita e che non è certo quella che gioca in casa, almeno a giudicare dalle proiezioni delle prime partite di questa stagione. Napoli è in questo momento di fatto la squadra più in forma, ma sarà anche una giornata che vivrà domani pomeriggio, mentre la Juventus giocherà in casa con il Verona sul derby di Roma nel quale tutti gli occhi saranno puntati su quel signore ormai anzianotto dal punto di vista sportivo che ha firmato proprio ieri la sua permanenza con quella maglia per cui ha giocato tutta la carriera fino al 2016, Francesco Totti. Io mi aspetto, non so cosa ne pensate voi, un grande Totti nel derby. Salutiamo qui, grazie a Franco Piantanini, autore di questo programma, a Pietro Lacorte in regia. Appuntamento a lunedì.